figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto. Oggi vi raccontiamo la storia di Brunella e Beatrice. Quando mio marito non mi chiamava alle 4, che lei non c'era più, ho capito che non sarebbe più tornata. Mi sembrava di diventare matta, perché io non riuscivo a realizzare che un servizio sociale, un giudice, potessero fare una cattiveria, una cosa, uno scempio così, una bambina. Io ho davanti lei sul pianerottolo del nostro piano di casa di sopra, in cima alle scale, in braccio mio marito che non voleva, che le stava attaccata al collo. Ed è l'ultima volta che l'ha vista? Sì. Sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Brunella ha adottato da single un ragazzo down, poi si è sposata e assieme al marito ha fondato una casa famiglia. Beatrice aveva poche ore quando è stata abbandonata dalla madre, un mese quando è stata accolta da Brunella e la sua famiglia e poco meno di 2 anni quando è stata strappata una seconda volta da quelli che pensava fossero i suoi genitori. È stata tolta all'improvviso alla famiglia affidataria che l'aveva cresciuta. È accaduto nel dicembre 2005. Brunella e Beatrice da allora non si sono più riviste. Noi abbiamo accolto questa bimba e cresceva bene, stava bene, quindi era diventata la sorellina dei miei figli. Fin da subito noi gli abbiamo fatto un sacco di fotografie, perché dicevamo, quando andrà nella sua famiglia avrà tutti i suoi ricordi, quando andrà in adozione, perché noi avevamo chiaro comunque che questo doveva essere il percorso. La situazione era talmente chiara comunque, perché il babbo non aveva riconosciuto la bambina, quindi diciamo era sparito la mamma, era sparita anche lei, con una famiglia alle spalle comunque piena di problemi. Era una bambina adottabile, certo, con una situazione evidente, chiara. Era evidente, sì. Invece sì. Si è protratta questa poi situazione si che di no, affido. Ci devono essere delle procedure, questo si sa. Però le procedure sono durate anni. Esatto, sono durati quasi 2 anni, è quella la tragedia. Vedevo che comunque nessuno si faceva vivo e il servizio sociale di Forlì ci chiese a noi, ma se voi siete disponibili, qui il tempo passa, voi cosa pensate? Abbiamo piacere comunque di sapere la vostra posizione. Vi veniva chiesta una disponibilità all'adozione? Esatto, questo? Esatto. E noi questa cosa ci ha colto molto impreparati, perché assolutamente non erano i nostri piani. Poi succede che quindi voi vi convincete ad adottarla. Sì, noi abbiamo dato il dono di Dio, così tutti d'accordo, benissimo. Cioè, diamo questa disponibilità che viene messa nella relazione per il giudice di Venezia dai servizi sociali, no? E avevamo tutto in regola, tutto perfetto. L'unica cosa è che per fare un'adozione mirata ci voleva il permesso di quella giudice di Venezia che segue quel determinato bambino. Come si chiama il giudice? Pirgoli, Federica. Non ci ha mai ricevuto, ci ha negato ogni possibilità di colloquio e ha negato anche la possibilità di fare la domanda dell'adozione mirata. A ottobre, senza che noi, del 2005, senza che noi sapessimo nulla, hanno dichiarato l'adottabilità della bambina. Il 30 di novembre ci arrivò un fax dove diceva che venivano 2 giudici del Tribunale di Venezia, 2 giudici onorari sempre, a incontrarci. E noi dicevamo, ma la nostra ingenuità, se vengono a conoscerci, cioè conosce la nostra famiglia, ormai vorrà dire che hanno, vogliono valutarci, insomma. Mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina. Quando vennero quelle 2 da Venezia, che sembravano 2 streghe, 2 arpie, tutte quelle a nostre spese, comunque dico nostro, degli italiani, con i taxi da Venezia tutti impellicciati con la pelliccia di visone, sono entrate, io l'avevo tutta vestita di rosa, era tutta con i vestiti della Veneto, tutta elegante, perché non l'hanno neanche guardata, non l'hanno neanche considerata, proprio come se niente fosse. C'eravamo io, mio marito e i miei figli, e lei era lì che giocava nella sala, dove eravamo anche noi attorno al tavolo, si è arrampicata, si è anche, ancora una volta attaccata al collo di mio marito. E loro niente, non più, si sono girate verso di me e verso mio figlio Down e hanno detto: ah, ma voi avete fatto già questo atto oblativo verso di lui, questa bambina deve andare nella prima famiglia che sta aspettando un figlio adottivo. A dicembre 2005 lei va fuori di casa per lavoro, il suo marito veste Beatrice. Sì, la bambina è uscita con questa nostra amica perché noi non dovevamo neanche sapere e vedere niente. Ha incontrato mia mamma, si è aggrappata a mia mamma. Nonna, nonna, nonna. La bambina non si voleva più staccare da mia mamma, perché comunque era la sua nonna. E quindi l'assistente sociale, in malo modo, ha praticamente bruscamente tolto la bambina, che ha cominciato a urlare come una disperata, dopo, e ha praticamente mandato via mia mamma in malo modo. Ma questo non è il modo di fare un passaggio. Ci vuole almeno un mese per una bambina così grande, non potete portarla via così. Lei doveva tornare a casa alle 4. Invece, dopo che è successo questo episodio, all'1, scortata dalla polizia a casa dell'autostrada, l'hanno portata via. E non l'avete più vista? Mai più. E lei aveva solo questo cagnolino di pezza che aveva quel giorno, che lei chiamava Ka. E con il suo Ka è andata via, senza nulla. E non ve l'hanno neanche fatta salutare? No. Mai più. L'hanno portata via, ripeto, solo con questo cane di pezza. E quando sono tornata a casa mi sembrava di impazzire, i miei figli sono stati malissimo. Mio figlio, quello adottato, ha cominciato a vomitare per dei mesi, finché non è riuscito a dirmi: mamma, cioè non riuscivo a capire che cosa fosse, all'inizio pensavo fosse un virus, ma poi hanno continuato così per tante sere. Quando è riuscito a dirmi: mamma, ho paura che mi portino via anche me, è stato un calvario. Chissà dove sei. Anima fragile. Non sapevamo noi neanche che pesci prendere, perché abbiamo chiesto una perizia. La perizia ha detto che la bambina è stata così traumatizzata con questo trauma da diniego, che è più grave della rimozione, cioè che lei per sopravvivere ha cancellato completamente 20 mesi della sua vita, perché era un dolore talmente forte che lei non è riuscita a affrontare. Il primo mese è stata sempre tutto, per un mese intero, con questo orsacchiotto in braccio, senza parlare, senza mangiare. Poi dopo, un giorno, ha buttato via l'orsacchiotto e ha ricominciato come se niente fosse la sua vita. Avete fatto ricorso alla corte d'appello? Sì. Avete vinto? Sì. Poi avete fatto ricorso alla Corte Europea di Strasburgo? Sì. Avete vinto? Abbiamo vinto. Il 27 aprile? Sì. La Corte ha dato ragione a voi? A noi. Ha condannato lo Stato italiano? Sì, sì. A risarcirvi cosa? Questo, praticamente 10.000 euro più 5.000 euro di spese legali, cose di questo genere. La cosa importante, come ha detto l'avvocato, che comunque questa storia è diventata una storia paradigma. Noi sapevamo che la bambina non sarebbe mai più tornata indietro, lo sapevamo, perché dopo che passano tutti questi mesi anche un cretino arriva a capire che come si faceva. E poi comunque non potevamo essere degli buoni zii, se vogliamo guardare la cosa anche da un'altra parte. Sono passati nel frattempo 5 anni prima di avere giustizia. Beatrice adesso avrà 7 anni. 6 anni. Anni. Ha compiuto 6 anni. È del 2004, ha compiuto 6 anni il 18 aprile. Conosce altri genitori affidatari a cui è successo, sta succedendo tutto questo? Sì, sì. Dopo è come se avessimo scoperto una pentola. Voi volete che sia riconosciuto il legame affettivo con i bambini, che quindi nel caso in cui siano adottabili e la famiglia affidataria si renda disponibile ad adottarli, venga riconosciuta prioritaria. Qual è il problema? Se uno, cioè voglio dire, se il bambino sta bene, se la famiglia La stessa cosa io l'ho fatta addirittura da singolo con mio figlio, ma come hanno detto loro, ma questo era down, che peso, quindi voglio dire, detto brutalmente, esatto, gli ho risolto un bel problema e me l'hanno tirato dietro. Questa era bella e sana, quindi è andata come pacco di Natale sotto l'albero per Natale. Era tu, chissà dove sei. Avrai trovato amore. L'associazione La Gabbianella e gli altri animali ha deciso di presentare una petizione al Presidente della Camera perché alle famiglie affidatarie venga riconosciuto il diritto, nel caso in cui il bambino sia dichiarato adottabile, a chiedere per lui un'adozione mirata e che al bambino soprattutto venga riconosciuto il diritto alla continuità d'affetti. Carla Forcolin, veneziana, scrittrice, che si è battuta per anni per i diritti dei bambini, è presidente dell'associazione La Gabbianella e gli altri animali. Perché se noi cerchiamo di metterci nei panni di certi bambini che sono stati messi in una famiglia appena nati, a pochi mesi, a un anno, e poi sono stati lasciati in quella famiglia per 2-3 anni, non possiamo che arrivare alla conclusione che quei bambini si sentono appartenenti a quella famiglia come qualsiasi altro bambino nella famiglia in cui si trova. E a un bel momento qualcuno decide che deve cambiare famiglia. Se noi pensassimo al punto di vista di quei bambini, capiremmo che sono rapimenti legalizzati quelli che noi andiamo denunciando. Figli di un Dio Minore torna domenica prossima alle 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore.